It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Giovedì 2 dicembre, bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori, sempre su Liberi Dentro e Du Radio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E do il buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Sei pronta ad aprire la seconda casellina del calendario dell'Avvento, che è pronta qui. Ed è la nostra iniziativa, diciamo, solidale per le carceri, per raccontare anche un po' questa realtà, raccontare attraverso i messaggi di auguri, le riflessioni, le curiosità che ci provengono da questo quartiere cittadino, un po' la nostra realtà circostante. E oggi ci scrive Joseph dalla Dozza, che salutiamo infatti. Ciao Joseph. Ciao Joseph. Ci scrive una lettera dal titolo Aspettando quel giorno, e tu Antonella ti chiederai, ma qual è quel giorno in cui sarà libero, no? Immagino di sì, sarà il giorno della libertà, no? Invece no, io mi sono sorpresa anche a leggere questa sua letterina, perché per lui quel giorno, sì, senz'altro anche pensando alla sua libertà, ma quello in cui potrà chiedere scusa ai familiari di una vittima, perché, scrive, chiedere scusa da uomo libero, dimostrando così l'assenza di un secondo fine, è ciò che può aiutare a voltare pagina e a essere liberi per davvero. E quindi salutiamo Joseph, grazie per questo scritto, e continuiamo con la nostra rassegna stampa. Carceri, da criminali a cittadini, le nostre vite rinate in prigione, leggo da Repubblica, firma di Gabriele Cruciata e Massimo Razzi. E questo perché sta per uscire, anzi uscirà domani, quindi è un invito anche a chi compra il giornale La Repubblica, un bellissimo podcast in 8 puntate, fatto di voci, numeri, luci e ombre anche sui penitenziari d'Italia. Quindi un viaggio nelle carceri d'Italia, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi per capire cosa veramente pensano gli italiani della nostra realtà carceraria. Il titolo è Chiusi dentro e uscirà sul sito di Repubblica e sugli altri quotidiani del gruppo GEDI in collaborazione con l'Associazione Antigone. È stato un lavoro di oltre un anno che ha provveduto a raccogliere più di 40 interviste per raccontare un pezzo della nostra società che è proprio il carcere. Senti, ma che cosa emerge? Qual è l'idea effettiva del sistema penitenziario italiano in sintesi? Se si può fare una sintesi. Sì, cioè l'idea è che il sistema penitenziario italiano in generale sia governato da buone norme, perché i detenuti sono in sostanza privati solo della libertà senza ulteriori afflizioni, come avviene invece in altri paesi, e che l'articolo 27 in particolare ribadisce il concetto della rieducazione, quindi debbono essere messi nella condizione di essere rieducati. Di fatto però, e questo ce lo diciamo tantissime volte, oggi le nostre prigioni sono discariche sociali e piene di persone che vengono dagli strati più deboli della società. Discariche lo dico in termini virgolettati, nel senso che ovviamente io non penso che siano delle discariche sociali per questo motivo, ma chiaramente i dati parlano chiaro. Il 30% dei 53.000 detenuti è dentro per reati legati alla droga, il 15% sono persone che soffrono di tossicodipendenza, quindi non dovrebbero essere in un carcere, dovrebbero essere in un'altra situazione, una struttura che li aiuti, e dove chiaramente le carceri sono i posti dove la recidiva è altissima, tant'è vero che in Italia è il 70%, ma è in grado di scendere ben al 30% se solo i detenuti potessero essere in condizione di lavorare, e al 20% per i detenuti che frequentano la scuola o attività culturali. Caterina, gli italiani cosa pensano del carcere? Beh, lo dovrebbero dire gli italiani, cioè magari dovrebbero essere le persone che ci ascoltano a dirci cosa pensano, però ecco, in questo caso l'idea che ne hanno gli autori di questo podcast è che la maggioranza degli italiani ha una idea piuttosto vendicativa del carcere come strumento di pura retribuzione e di allontanamento di chi ha sbagliato. E la politica ha da sempre assecondato questa tendenza, temendo un giudizio sociale che tipicamente è riassunto nella frase quei delinquenti sono dentro a fare la bella vita a nostre spese. E così, ecco, le nostre prigioni, nonostante il grande lavoro di operatori e volontari, restano certo sempre quei luoghi della sofferenza e anche di una sofferenza ingiustificata, come si è visto nei casi dei video di Santa Maria Capua Vetere. Però alla fine il bello di questo podcast è il fatto che presenti delle vite, quindi non presenta un reato che cammina, ma la persona. Persone che ce l'hanno fatta e ora sono degli esempi contro ogni dubbio e sono quelli che in realtà realizzano pienamente l'articolo 27 della Costituzione. Assolutamente, infatti per parlare di carcere non si può parlare in astratto, si deve parlare delle persone che lo vivono. E in questo podcast, per esempio, è raccontata la storia del camorrista, dell'ex camorrista Aniello Arena, che per molti adesso è noto come un attore napoletano pluripremiato, pensiamo ai film di Matteo Garrone, Reality e Dogman. Ma nulla di tutto questo per Arena sarebbe stato possibile senza il carcere, dove ha incontrato il teatro e ha sviluppato questa passione che è stata importantissima per lui. Lui e il teatro si conoscono a Volterra grazie ad Armando Punzo, regista partenopeo che a partire dagli anni Ottanta ha portato la recitazione all'interno del carcere di Volterra con la compagnia La Fortezza. E la storia di Aniello dimostra il cambiamento che fa del bene a sé e agli altri. Ma tutto questo è stato possibile solo grazie a un esterno, come per l'appunto il regista Punzo, che da più di 30 anni crede negli altri e offre delle alternative. Caterina, mi viene in mente anche un altro noto detenuto, Carmelo Musumeci. Infatti c'è anche la sua storia raccontata nel podcast. Ora Musumeci ha 66 anni, vive a Bevagna nella campagna umbra e all'attivo ha una carriera iniziata a 16 anni e una carriera criminale chiaramente e culminata nel 92 con la condanna all'ergastolo per un omicidio a stampo mafioso. E oggi è molto cambiato, è proprio lui che parla di perdono, di seconda opportunità e spiega anche che il peggior criminale lo puoi cambiare ma lo devi far sentire in colpa. Lui dice: il criminale ha paura solo del perdono perché è lì che inizia a cambiare, e dice: io ho cominciato quando un operatore ha avuto il coraggio di abbracciarmi. E quindi è iniziato tutto un processo all'interno di Musumeci che, volevo ricordarvi, ha preso anche 3 lauree e ha scritto 9 libri a stampo a taglio autobiografico. Quindi un bellissimo podcast che sono molto curiosa di ascoltare anch'io, sempre su Repubblica, sul sito di Repubblica, ma adesso rimaniamo con una canzone, Aretha Franklin con Think, e ci rivediamo tra pochissimo. Rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale con Aretha Franklin. Ma Antonella, una notizia di cultura e società che ci sconvolge abbastanza è quella di un'asta su un autoritratto di Frida Kahlo, che pensa Caterina è stato battuto all'asta per quasi 35 milioni di dollari a New York. Un record che lo rende il dipinto più costoso mai realizzato da un artista latinoamericano. Il quadro è un quadro molto famoso che si intitola Diego y Yo e rappresenta il volto della celebre pittrice messicana coi lineamenti del marito Diego Rivera, del secondo marito in realtà, che appaiono sulla sua fronte. E pensa che il precedente record per un'artista latinoamericana apparteneva proprio a Rivera, Diego Rivera, il cui Los Rivales era stato venduto a quasi 10 milioni di dollari nel 2018. Ad acquistare il dipinto è stato l'imprenditore argentino Eduardo Costantini, ha confermato all'agenzia EFE la casa d'asta Sotheby's. Costantini è il fondatore del Museo di Arte Latinoamericana di Buenos Aires, ma l'opera l'ha comprata per la sua collezione privata e non per la Pinacoteca. Per arricchire il Museo Costantini, lui ha acquistato invece di recente altre opere importanti di altri artisti latinoamericani per cifre ragguardevoli, come Omio Bini del cubano Wilfredo Lalm e Armonia della spagnola Remedios Varo, pagati rispettivamente 8 milioni e mezzo e 5 milioni e mezzo di euro. Certo, per una cifra di questo tipo uno si aspetta una tela enorme, e invece com'è questo quadro della Kahlo? E invece Diego y Yo è un quadro di piccole dimensioni, Caterina, perché è tipo 30x22 centimetri e mezzo, risale al 1949, pochi anni prima della morte dell'artista, ed è l'ultimo autoritratto di Kahlo degli anni 40. Kahlo ha dipinto autoritratti lungo tutta la sua carriera, ma i migliori risultati risalgono proprio a quel decennio lì. Queste sono tra le sue opere più famose. Un piccolo dettaglio: e dopo il secondo matrimonio con il famoso muralista messicano Diego Rivera, Frida Kahlo ha iniziato a lasciar confluire nella sua arte delle influenze molto diverse, che variavano dalla mitologia azteca, per dirti, e anche quello orientale, alla medicina, alla botanica, c'era un po' di tutto. Successivamente la pittura è diventata anche uno strumento per esprimere la convivenza con la sua malattia cronica e il rapporto sempre più complicato con Rivera, perché a tal proposito Diego y Yo può essere considerato un doppio ritratto, dal momento che Kahlo include una piccola immagine di Rivera proprio al centro della sua fronte, una sorta di terzo occhio, come a simboleggiare l'enorme grado di pervasività con cui il compagno ha occupato la coscienza dell'artista. E poi c'è anche una storia un po' più triste, la delusione e lo sconforto che questo legame ha portato con sé. Infatti il dipinto fa anche riferimento al rapporto di Rivera con la diva messicana Maria Felix, di cui il muralista dipinse anche un ritratto particolarmente sensuale nel 1949. Questo rapporto fu oggetto di molti gossip e, sebbene la stessa Kahlo provasse a scherzarci su, diciamo così, ne rimase profondamente ferita. E per questo Diego y Yo è il più vulnerabile e commovente ritratto della coppia, anche perché si vede il volto di Frida Kahlo triste e con delle lacrime. Il prezzo al quale è stato battuto l'autoritratto è circa il quadruplo del precedente record segnato a un'asta da un quadro di Frida Kahlo, quasi 8 milioni di euro nel 2016 per Due nudi nel bosco. Però a questo punto io passerei alla musica, restiamo con Mario Biondi con My Christmas Baby e poi ascoltiamo Adriano Moraglio, giornalista e scrittore, che abbiamo ascoltato negli scorsi giorni. I feel snow falling on my head and I can wait to be home tonight because I miss you, I want you. Feel the silent night start shining today. All the lights in the bay, fire burns and blaze. Our home is the right place. In Cincinnati, you're not far away, 'cause you're my Christmas baby, the sweetest gift I've had. Bells are ringing and jingling, you captured my heart in the spring. Bene, ritrovati, sempre su Liberi Dentro Eduradio e TV. Continuiamo il flusso della nostra chiacchierata intervista con Adriano Moraglio, già con noi da alcuni giorni. Buongiorno, ciao, bentornato. E, Adriano, sempre legato al mondo del carcere, nel 2021 hai pubblicato con l'editrice Rubbettino il libro Il rapinatore gentile. Di che cosa parla? Parla della storia di un mio amico, perché siamo grandi amici, che io ho incontrato al polo universitario del carcere di Torino, e lui è stato un rapinatore anche di un certo livello. Considerate che Oreste si è fatto più di 30 anni di carcere, a pezzi, no? La prima condanna di una decina d'anni si riferì a una importante rapina che fece in centro Italia, e la seconda condanna, pensate, una decina d'anni, si riferì ad un fatto a cui lui non partecipò. Quindi fu una condanna sbagliata, no? Lui ovviamente ne uscì incattivito, no? E poi ci fu l'ultima condanna per una rapina importante, che fu effettivamente la sua ultima, a cui seguì un lungo periodo di latitanza, periodo nel quale lui maturò la convinzione che doveva costituirsi. E lui me lo dice sempre, Oreste, guarda che per uno che fa quella vita il pensiero di costituirsi è una cosa pazzesca, pazzesca. Però lui lo fece, si costituì, fece in modo tale che non lo arrestassero, ma che lui si facesse arrestare. Hai capito? C'è una cosa che mi ha colpito subito di questo titolo del libro dedicato a Oreste, il rapinatore gentile, ed è proprio l'aggettivo che ha usato, gentile. Prima sì. Hai detto che lui è uscito chiaramente incattivito da quell'esperienza di carcere ingiusta, però tuttavia è un rapinatore gentile, quindi io mi chiedo se c'è un'etica anche in chi compie un reato di questo tipo, la rapina. Mi piace questa domanda, perché c'è un'etica. Infatti Oreste... C'è sempre in ognuno di noi, no? C'è sempre il tentativo onesto, anche giusto, di giustificare, ma comunque di dare delle spiegazioni reali, vere, no? Alle nostre azioni. Perché al fondo c'è sempre una speranza, no? In tutto quello che facciamo c'è sempre un elemento, anche nelle cose non buone, c'è sempre qualcosa di buono al fondo. E lui è questo che Oreste vuole capire. Lui oggi dice, se io non fossi passato attraverso quell'esperienza, oggi non sarei l'uomo nuovo, rinnovato che sono oggi, no? Ed è vero. Ma è anche vero che comunque il suo comportamento gli ha causato una vita veramente dolorosa. Perché lui non ha potuto accompagnare suo padre al funerale, gli è morta la moglie prematuramente, e quando gli hanno detto ok, puoi andare al funerale, ma ci andrai ammanettato, lui, io ammanettato il funerale di mia moglie? No, e non andò al funerale di sua moglie. E comunque i figli, quattro figli, lui li ha visti crescere nei colloqui del carcere, capite? Quindi la sua è stata una vita difficile. Quindi che lui a oggi direbbe, ma io non vorrei rifare quella vita lì. Ma l'ho fatta. Ci sarà pure un significato. E quindi lui ha questo spirito positivo, no? Questo spirito di curiosità, di voler capire perché gli è successo a lui, alla sua vita è successa quella roba lì, capisci? E infatti il libro, se permetti, leggo proprio le prime righe, lui dice questo: mi sono spesso domandato, soprattutto da un certo periodo in poi della mia vita, perché mai avessi scelto di diventare un rapinatore. Pensate, lui non ha mai avuto bisogno di rapinare, famiglia per bene, famiglia che stava bene, no? Ma lui cercava qualcosa di più dalla vita. A quasi 70 anni non ho trovato ancora una risposta esaustiva. Il male dentro il quale ci caliamo, infatti, è come un pozzo oscuro nel quale si scende per diverse ragioni, per complesse circostanze, e dal quale è difficile e faticoso risalire, se non dando credito al desiderio, al coraggio di guardare da un'altra parte, diversa dal buio dominante di quella cavità scavata nella terra di ognuno di noi. Desiderio e coraggio che possono soltanto essere sostenuti dalla presenza di persone che ti vogliono bene, che sanno guardare ben oltre la tua volontà di risalire. C'è gente che allunga il braccio e ti tira su dal pozzo scuro, magari calandosi qualche metro in giù, verso di te, in mezzo a quelle tenebre, senza aspettare che tu abbia fatto il primo passo lungo quella scaletta, cosa che è accaduta anche a me. È bellissima questa cosa di te, che sei lo scrittore, che mi dici che stai leggendo lui, quindi è qualcosa di meraviglioso, già solo questo. E invece, riguardo proprio alla storia di Oreste, adesso, vabbè, noi chiaramente non possiamo dire il cognome, abbiamo detto il reato. Qual è stato il suo percorso di recupero? È uscito chiaramente? Siete rimasti in contatto? Il suo percorso di recupero è stato molto legato alla cultura. Allora, lui ha frequentato il polo universitario del carcere di Torino e lì si è laureato in scienze politiche, ha fatto la triennale, ma soprattutto quello che lo ha costruito sono state le letture. Lui ancora oggi, quando parla, dice, non so se ti vuole esprimere un concetto, dice: ah, Tocqueville disse, ah, come ha detto batte la pesca, filosofo o sociologo, no? E quindi lui, a parte che lui ha sempre vissuto molto bene l'esperienza carceraria, no? Perché si è sempre dedicato agli altri, non so, per dirti, quando era al carcere delle Nuove a Torino, quando c'erano ancora le Nuove, lui gli diedero l'incarico di seguire i malati di AIDS, oppure dove c'era del bisogno lo chiamavano, perché si fidavano di lui. No? Oppure lui, che è idraulico, quando è stato in un certo carcere faceva il caposquadra degli idraulici, no? E tutti lo chiamavano. Quindi lui ha sempre lavorato, studiato, quindi ha sempre vissuto bene quel periodo, no? Quindi la sua storia è esemplare anche da quel punto di vista, no? Perché il carcere lo puoi vivere anche bene, no? E lui dice: quando studi, quando leggi qualche cosa, quando fai dei lavori, le sbarre scompaiono. Ecco, quindi lui ha fatto questo percorso, si è poi appunto laureato, è uscito, un parente gli ha dato un lavoro molto importante, oggi lavora, è responsabile della logistica, delle spedizioni, di una tra le più importanti aziende commerciali piemontesi. E quindi lui lavora con tutto il nord d'Italia, organizza le spedizioni, lavora 15, 16, 17 ore al giorno, è contento, ha 69 anni, spera però di calmarsi un po' nei prossimi. Adriano, in che maniera possiamo legare il prossimo brano, sempre di Claudio Chieffo, che si intitola Canta la strada, al nostro amico Oreste? È bella la strada. È bella la strada perché per chi cammina, dice questa canzone. E lui è un uomo in cammino. Non ha finito di camminare. Cioè, io quando parlo di questo libro dico sempre: Guardate, fate attenzione, qui non stiamo parlando di uno che era un cattivo e oggi è diventato un bravo. Non stiamo parlando di una persona che ha fatto delle cose paurose e oggi è un santo. Non parliamo di uno che era un miscredente e oggi è diventato uno con l'aureola. No, non ha l'aureola in testa, Oreste. È un uomo come noi. Cioè io vedo nella sua storia la storia di ognuno di noi che fa delle cose buone, negative, però è continuamente in cammino. E come dicevo prima, proprio facendo questo cammino migliora, trova il senso della sua vita, no? Ma questo senso, questo significato della vita bisogna cercarlo, bisogna voler cercarlo. E Oreste è questo. Ecco perché è bella la strada per chi cammina. Noi siamo camminatori tutti. E allora ascoltiamo Claudio Chieffo, Canta la strada. Adriano, a domani, grazie. A voi tutti. È bella la strada per chi cammina. È bella la strada per chi va. È bella la strada che porta a casa e dove ti aspettano già. È gialla tutta la campagna ed ho già nostalgia di te. Siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata, anche oggi vi rimandiamo alla rubrica a seguire con le pillole di Antigone. Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone, spiega la riforma della giustizia penale in atto, quindi una rubrica molto interessante. A seguire la mia intervista a Ornella Favero, la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia e anche la fondatrice di Ristretti Orizzonti, che ci racconterà come è nata questa redazione all'interno del carcere dei Palazzi di Padova e anche alcune tematiche attuali inerenti proprio alla realtà carceraria. Scriveteci redazioneliberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Enea Flacco, Diana Bota, e a domani. Grazie a tutti e a tutti. It's beginning to look a lot. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.